Ciao Gianmarie, buonasera, ben sentito. Ah, stavo preso per te, lo stavo preso. Ehi, buonasera comunque. Ehi Gianmarie, direi che là non mi è toccato nulla, non mi è toccato, sono impazzito tutto. E me forse è meglio avere l'assaia, che sennò da voi sei pericoloso. E allora? Mi portasse a me solo chi si sa, poi si è tirata là e basta. Ah, se ne è troppo, la puoi sequestrare già. E che se pure è vero. E allora, certo. Ah, va, quello là è non ti sei carica. Vabbè. Meglio così. Allora manco non mi zecca nessuno, Gianmarie. Non nasce, non mi zeccane. Che si vede che io, Vai, non vedere, non ti seccare. Ma, cosa vuoi fare? Graziano, non si è sentito, no? No, non ho sentito nessuno, Gianmarie. La verità, ho sentito solo a te, tu. Cosa ti volevo dire? Catta quell'antennino che c'hai, spara un bemmi quel gommino. Dai, piccina, arrivi in occhio, come ti gira di venda, va. Ti volti. Lo segnale non l'ha già mai dato, ma la voce sia c'ha ragione, senza un filo di QRM a rimane. E tu a me non mi sentivi, dimmi tu. E adesso sono quell'antennino sul balcone adesso sono. Ma infatti, ma sappiamo che questa frequenza è così, capito? E a Bacchisio è la stessa cosa. Lui mi sente e io lo sento a lui. E purtroppo è così. E infatti anch'io raramente l'ho sentito a Bacchisio. Aspetta, è proprio con gommino a vedere. E provo a vedere se mi senti. Io te lo appoggio. E vai tu, pompo. Buonasera anche a te, è bella ta. Arrivi come a te, Sinocchi, tu a me intendi? Non mi sente perché sono alle 10, magari se me ne vado in facciata già mi sente. Riprendi Antonello. Se vai in facciata ti sente per forza, Gianmarie. Stasera la tappata, per forza non ti sente. Il gomito è così purtroppo. Ah, Maria, già lo sento Antonello. Signor Antonello. Tagliere. Che mi dici? Da solo Biglio. Biglio c'è anche Antonello e Natalino. Gian Maria, mi senti? E c'è un po' come Natalino, c'è. Cappuccioni. O dico anche il numero di telefono. Ma che c'è un po' come, c'è? Che io lo sento. Antonello. Ehi, c'è Natalino, ti sta chiamando. Io non sento nessuno, solo sento a te e a Luca e basta, non sento a nessun altro. Dilli di cambiare l'antenna, comunque qui arriva lo stesso, anche quando è dietro lo sento, a Gianmarie io, col gommino, e lui che non sente a me. Altro di cambiare l'antenna, Gianmarie, che lui ti sente, hai capito? Adesso... qua dovrei sentire a tutti, là. Eia, Gianmarie, tu arrivi tu a te, Rugomino, arrivi. Sei tu che non intende a me, tanto buono Rugomino. Ma infatti, da ieri mi sono accorto. Come fa Bacchisio a me. Lui mi sente, io non lo sento. Luca! Ehi, ma non lo senti a Natalino? Sì, io lo sento. Natalino. Eia, già sono qui, ciao Luca, buonasera. È lui che non lo sente a me. Ah, così, non lo senti a Luca, Natalino. Eia, che già lo sento. E che ti senti lui, cosa mi stai dicendo? Natalino, mi tocci. E vai, qua, mane. Dammi tu sì. Vai, cocuomane. Ah, vi ascolto tutti, vi ascolto. I barrabbi, tutti e tre. Olì. Ciao, pompù. Ehi, qua sono io, non ti preoccupare. Gioco in oca ancora. Ma te li immagini questi qui, tutti umbriaconi fragili sono. C'hanno ragione, tu non li senti, scusa, ci mancherebbe. Cioè, 4 in 1 non può essere, O sono tutte macchine, sono tutti, oppure non ti voglio sentire, il corso è quello. Allora, mi sentito là, cosa ha detto la 50? Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. E c'è chi non vuol vedere. Ecco. Oh, io sento a tutti i sensi. Pompo, non chiacchieri. Ehi, hai la donna stamattina, io, vicino a casa di Natalino. Gli ho suonato, non ho manco sentito, mamma mia. Perché evidentemente è addormentato, era. Chi, Marino? No, Natalino, è addormentato stamattina. Ho suonato, se c'era, ma è addormentato, era. Forse era... era ancora in coma. Se non è che ho suonato quando stavo portando il cane, non c'ero. A che ora è che sei venuto? Che io ci sono tutta la mattina qua. Senta, ma ti senti inteso? Mi suonavi a vederla se ti avevi inteso. Io di solito me ne vengo alle 11, me ne vengo, mi. Qua, non è possibile. Perché io a quell'ora ero a casa alle 11. Ho sbagliato campanello, gatta. Stavo facendo l'amore a quell'ora lì, capito? Ho sbagliato tutto. La prossima volta posso ripigliare il campanello, prendo molto picco, prendo. Vai, vai, che io sento a tutti, sento. Che pizzina, che qua c'è un campanello qua, fenomenale, ti va di soglio. Antonè! Dimmi tutto, dimmi. A me mi sembra quando era matta con matta, Natalino. Eia! Tu stavo facendo lavoro stamattina, e io invece sono rimasto in bianco per colpa sua, perché sono andato presto a farmi il giro, e invece mi sono rimasto fregato, hai capito? È l'onfio, maledizione, cazzo, questa storia del come si chiama, perché lui ha preso un medicinale nuovo, preso ha posto del Viagra, hai capito, ha preso cemento al matto e quindi ha usato quello. Io sono fregato, sono, non rispondo a nessuno finché non è solido, non c'è nulla da fare. Se non ha fatto a noi, non riesce a distaccarsi. Lo dico io, hai bevuto qualcosa, perché io alle 11 ero qua. Bene, Natali. Quello lì è cotto, Emmy. Non è possibile. Io alle 11 ero qua, tranquillo. I due di Junta e Nocchi era mandati pure a un disaidù. E vedi, Gian Marì, come ti ci copri la verità? E pure la risa mi è scappata. Ehi, va, se un ridi, tassa. Ma, comunque oggi è stata una sacca cosa, minata lì. Tu a quell'ora ancora, magari... E dovevo riuscire a distaccarti, capito? Hai fatto un nodo e non hai sentito nemmeno il campanello. No, pure se avevo fatto un nodo, se avevo inteso il campanello, ero vincato in Daredo. Tranquillo, sei il postino che porta la segno, a me se molla, Altro che nodo, Mamma mia. Luca, fava bravo. No, che c'è Antonello, è Antonello quello che mi sta andando contro oggi. Oggi mi vuole mettere in mezzo. E Luca se ne sta ridendo, gatta faccia nostra. Concetta, ciao Conce. Aspetta, sta venendo. Luca. Luca, cosa c'è? Lo sai che stai diventando veramente come Pinocchio tu, mi raccontando bugie. Concetta, non mi tassi. Io sono bella sveglia e pimpante anche. Ah, tu sei dormita dalla voce, ti sento da lontano, vicino e lontano e vicino e dormita. A me mi sembra che hai fumato qualcosa di strano oggi. Sì, mi sono fumato un baracchino del 1860. roba da fare. Ascolta Luca, tu sei innamorato e quando si è innamorato non si capisce più. Prendi dammi di sugare, maledetto. Allora presto sei innamorata. E come sono innamorata? Ho detto tu sei innamorata allora. Cosa hai detto Luca? Ho detto che anche lei è innamorata. A proposito, salutami la tua ragazza, che è molto simpatica. Ti senti, sta sentendo, Concetta. Ah, che ho un zicchito, ti sente. Come salutala? Ciao Concetta. Ciao. Oh. Ah, saluta. Ciao Concetta. Ah, ciao. Da, ciao! Ti ha sentito comunque, ha detto che tu sei molto dolce e più dolce della Nutella. Ripeti Luca che non abbiamo capito. Ha detto Marina che è dolce tua moglie, più dolce della Nutella. Da. Wow, è bello è questo. Pensavo che la Nutella non la stavo mangiando per niente, lo sai, io ho anche la voglia della Nutella. Sì, adesso ti mando la foto che lui sta mangiando la Nutella. Oh. Mandala, mandala. Almeno mi sazio con quella che vedo. Sì, te la sta mandando lì, cioè, su Messenger. Avanti, Natale, avanti, Giovanni, riprendi. Ok. Però poi se c'è Antonello, Antonello, chi si può qua tancato? Chi si è da trincava? Io sarò brinchendo da un canale all'altro. Come ti fa tu? Per carità, ragazzi. Senti, trinchendi si vuoi, chi si fa bocca a pompa, E allora, te li immagini, chi si brutto vuoi? E allora, lui. E poi, però, l'hai sentito oggi, lui? Meia. No, stamattina avevo con lui dato un passaggio da fare delle commissioni. Ah. Beh, sempre felici travaglio e bari in casa sua. No, sta mettendo a posto il magazzino. Oh, bella bella. Cosa che c'era per me? Cosa c'era per te? Dove? Il magazzino dice che c'era cosa per me. Ah, boh. Lo so. Boh. Domani ci passa se ci va. Anzi, no, lunedì. Lui dice, se ci va ci passa a vedere un po'. E vi dà un po' cosa che ha combinato con il magazzino. Quindi va in ci magazzino a pure la poccia, uia! Ah vabbè, diciamo che quei pannelli polistirolo li abbiamo messi. Adesso lui si è messo già il gancetto tutto quanto. Si deve mettere lo spago e si fa l'altra parte, dai, già a buon punto. Poi ci vuole mezzo piatto elettrico. Impianto elettrico e basta. Almeno può lavorarci benissimo dopo, dai. Meglio così, dai. Ah, lo scaldabagno si deve piazzare, quello che si è comprato a gas. Oh. Gli serve l'acqua calda perché? L'acqua calda serve ovunque. Capito. Perché dice che ci vuole l'acqua tiepida, boh. Ho capito. Bene, Meba. Riprende la tariffa. Sì, là. Vi saluto che deve venire gente qua. Sarà per arrivare, capito? Così almeno non mi trova con la roba accesa qua. Vabbè, ci sentiamo dopo. Allora, a che ora manca quello X che sto combinando qualche cosa, così appena mi so quello computer. Ehi, campa. Va bene, grazie della chiacchierata, da, al limite se coincide a dopo. Ehi, ecco, sentiamo. Sentiamo dopo lui. No, tanto io sto per uscire, là. Devo salire a casa, la mamma che gli devo preparare l'aerosol. Maria, domani se ci siete. Ciao. Va bene, d'accordo, ciao, ci sentiamo. Hola. Che?